Bene, racconta il comandante. 900.000 euro di multa dell'antitrust alla Apple per informazioni poco chiare. Accordo Delmi-EDF, ai francesi l'80% di Edison e di Power va invece agli italiani. Siena, la contrada dell'Oca bandisce le donne ribelli che chiedono di votare in assemblea. Buongiorno dalla redazione di GR24, da Maria Piera Ceci. Sono dunque 6 gli italiani a bordo del mercantile sequestrato nel Golfo di Oman. Ci racconta tutto in diretta Maria Luisa Pezzali. Sì, buongiorno. Era partita dagli Emirati Arabi ed era diretta nel Mediterraneo la Enrico Jevoli. Questo è il nome della motonave italiana sequestrata dai pirati al largo delle coste dell'Oman. Imbarcazione della Marnavi di Napoli, compagnia specializzata in trasporti chimici. Infatti questa nave ha un carico di soda caustica. I membri italiani dell'equipaggio appunto sono 6, tutti siciliani, gli altri 12 sono ucraini e indiani. I pirati sono a bordo, ma noi stiamo tutti bene, ha detto il comandante Agostino Musumeci all'armatore Domenico Jevoli, che ha poi riferito il contenuto della telefonata. La Jevoli ora sarebbe in navigazione, si presume come sempre in questi casi, verso la Somalia. L'unità di crisi della Farnesina sta ovviamente seguendo la situazione in stretto contatto con la Marina Militare. Su Twitter il ministro degli esteri Giulio Terzi chiede di mantenere il più stretto riservo per favorire l'esito positivo della vicenda, quindi trattative sarebbero già in corso. La Enrico Jevoli aveva già subito un tentativo di attacco da parte dei pirati nel 2006, attacco in quel caso fallito. La notizia di oggi di questo nuovo arrembaggio dei pirati arriva a pochi giorni dalla liberazione della Savina Kailin, la petroliera tenuta in ostaggio per 10 mesi. A novembre invece, dopo 7 mesi, era stata la volta della Rosalia D'Amato. Per ora è tutto. Grazie a Maria Luisa Pezzali. L'antitrust ha multato il gruppo Apple con sanzioni per un importo complessivo di 900.000 euro per pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori. La decisione è arrivata al termine di un'istruttoria che, spiega in una nota l'autorità, ha provato sia la non piena applicazione ai consumatori da parte delle società del gruppo operanti in Italia della garanzia legale biennale a carico del venditore, sia le informazioni poco chiare sugli ambiti di copertura dei servizi di assistenza aggiuntiva a pagamento offerti da Apple ai consumatori. EDF e i soci italiani di Edison hanno concluso oggi un accordo di principio per la riorganizzazione della società. L'annuncio arriva dal gruppo transalpino, che acquisterà il 50% di Edison da Delmi, arrivando quindi a detenerne complessivamente l'80%. Delmi, quindi gli italiani, comprano invece il 70% di Edi Power. Ed ora il punto su borse, soprattutto sullo spread che torna a salire. In diretta con noi Deborah Rosciani. Eccomi di nuovo. Questa mattina lo spread di nuovo risale la china, anzi risolleva la testa in maniera un po' preoccupante, perché ritorna sopra i 500 punti base e ritocca anzi 518, per viaggiare adesso leggermente al di sotto. Il titolo decennale è come rendimento sopra il 7%. Tutto questo alla vigilia di due importanti appuntamenti che il Tesoro italiano avrà domani e dopodomani, quando si presenterà sui mercati per le ultime due aste dell'anno: bot semestrali domani per circa 9 miliardi e BTP a 3-10 anni dopodomani per un importo compreso fra i 5 e 8 miliardi. C'è grande attesa appunto per verificare l'accoglienza che il mercato riserverà a queste aste. La borsa è contrastata in Europa perché abbiamo Parigi e Francoforte positive, anche se al di sotto dei massimi di seduta. Francoforte più 0,3 è lo stesso Parigi in questo momento, più 0,3%, mentre Milano sta perdendo lo 0,64% sul FTSE MIB per le vendite che stanno tornando copiose su tutto il comparto bancario. L'euro sul dollaro è 1,3066. Per ora è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Vacanze finite per il presidente del Consiglio Mario Monti, tornato a Roma in vista del primo importante appuntamento politico, il Consiglio dei Ministri di domani. Liberalizzazioni a partire da taxi, farmacie, ordini professionali, rilancio delle grandi opere, riforma del mercato del lavoro, contenimento della spesa pubblica. Tanti i temi che potrebbero entrare nell'agenda del Consiglio dei Ministri di domani, non ancora ufficialmente convocato, ma dato ormai per certo. Riunione che che inaugurerà la cosiddetta fase 2 incentrata sulla crescita e che dovrà dare un segnale di fronte alle turbolenze dei mercati e a uno spread che resta sopra quota 500, una fase che lo stesso Premier vorrebbe chiudere in 90 giorni. Monti nel pomeriggio sarà a Palazzo Chigi per un incontro con il leader del Movimento per le Autonomie Raffaele Lombardo e probabilmente anche per preparare la riunione di domani e la conferenza stampa di fine anno fissata per il 29. Intanto torna a farsi sentire Berlusconi, critico nei confronti di una manovra che definisce recessiva, mentre Monti dovrà vedersela anche con i sindacati ancora sul piede di guerra. Per CGIL e CISL e UIL la partita della previdenza non è un capitolo chiuso, mentre sulla riforma del mercato del lavoro avvertono il governo ci ascolti o sarà mobilitazione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Riflessioni di fine anno del vignettista del Times. Peter Brooks si lamenta che nel 2012 gli mancherà Silvio Berlusconi, anche se quando l'ex presidente del Consiglio si è dimesso a novembre la sua matita al vetriolo aveva quasi esaurito per sua stessa ammissione tutte le metafore sessuali. A Milano questa mattina i funerali del giornalista Giorgio Bocca. Se n'è andato così come piaceva a lui, senza fanfare o squilli di tromba, insieme a familiari, amici, colleghi e tanti cittadini comuni che, seguendolo da tanti anni su Repubblica o L'Espresso, lo hanno seguito anche nell'ultimo saluto in questa chiesa di San Vittore al Corpo, in zona Magenta, vicino alla sua casa in via De Grassi. Tanti applausi sul sagrato che Bocca, poco incline ai sentimentalismi, avrebbe respinto, ma poi magari anche gradito. Un partigiano della parola lo ha definito, con una felice sintesi, il sacerdote durante l'omelia. Gian Antonio Stella, del Corriere della Sera, lo ricorda come un maestro. Un uomo che ci ha fatto conoscere l'Italia nel dopoguerra, a partire dagli anni 50 fin su ad oggi. Un uomo curioso, pieno di spirito di avventura. Anche per Giulio Anselmi, presidente della Federazione Editori Giornali, Bocca è un grande punto di riferimento. È stato uno dei grandi giornalisti di questi decenni. Io l'ho letto fin da ragazzo e poi, quando dirigevo l'Espresso, avevamo spesso occasione di sentirci, perché Bocca scriveva oltre che per Repubblica anche per l'Espresso. Un uomo di coraggio, di carattere fermo, duro e di grande intelligenza. Il suo corpo verrà cremato e le sue ceneri, e questo gli piacerà, verranno tumulate alla Salle in Val d'Aosta, vicino a quelle montagne dove, come ha detto la figlia Nicoletta, ha trascorso le ore più felici. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'Aquila è finita la moratoria fiscale ottenuta subito dopo il terremoto, una città però, L'Aquila, in cui l'economia è ripartita solo in parte. A quasi tre anni dal terremoto all'Aquila, ricostruzione e rilancio dell'economia restano le priorità per un territorio ancora alle prese con un difficile ritorno alla normalità. Per il futuro si parla della creazione di una zona franca, intanto però, passata la fase della prima emergenza, da gennaio gli aquilani cominceranno a pagare tasse e contributi arretrati, anche se a rate in forma ridotta. Un'agevolazione che ha rappresentato una straordinaria boccata d'ossigeno anche per le imprese del cratere, che oggi vivono una realtà fatta di luci e ombre, spiega Fabio Spinosa Pingue, nuovo presidente di Confindustria L'Aquila. Ci sono attività che hanno ripreso subito, ci sono attività invece che hanno avuto danni enormi, ci sono attività, per esempio tutte quelle commerciali, artigianali del centro storico, che ancora oggi stanno a girarsi i polsi semplicemente perché non possono rientrare. A preoccupare la città è anche la drastica riduzione da parte del governo Monti dei fondi destinati alla gestione dell'emergenza terremoto per il 2012. La crisi certo non aiuta, ma Spinosa si dice comunque ottimista. Noi stiamo cercando di far passare il terremoto, visto che non ce lo siamo cercati, come una straordinaria opportunità per ridisegnare questa città capoluogo di provincia e capoluogo di regione. Credo che abbiamo il dovere di vedere il famoso bicchiere che tracima e quindi continuare a diffondere ancora più ottimismo, di dare ancora più luce alle cose che funzionano, che vengono fatte bene, rispetto a quelle che magari non funzionano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Vendere sotto costo all'estero marchi di imprese o di prodotto permette di evadere alla grande. Funziona così: l'azienda trasferisce oltre frontiera ad una società straniera dello stesso gruppo il marchio ad un prezzo più basso del valore effettivo. Più il prezzo è basso e più l'evasione risulta elevata, perché il fisco incassa meno tasse di quelle dovute. Un caso recente riguarda un'impresa detentrice di un marchio che ha ceduto ad una società estera dello stesso gruppo. Contemporaneamente ha sottoscritto un contratto di licenza per l'utilizzo dello stesso marchio, pagando un canone o royalty annuale pari al prezzo di cessione e di gran lunga inferiore al valore di mercato. Scoperto il trucco, il contribuente ha dovuto adeguare il valore del marchio e pagare tasse davvero elevate. Il paese sommerso per una volta è riemerso. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Siria, la delegazione degli osservatori della Lega Araba sta incontrando il governatore di Homs, la città che con quasi 2.000 civili morti e ammazzati in 10 mesi di repressione ha pagato il tributo di sangue più alto della rivolta in corso da marzo. In coincidenza con la visita degli osservatori, migliaia di cittadini sono scesi in strada per manifestare contro il regime e la sanguinosa repressione in corso da 10 mesi. Torniamo in Italia per parlare dell'incendio che nell'entroterra savonese ha distrutto 300 ettari di macchia mediterranea. L'emergenza però non è finita. Una colonna di fumo continua ad alzarsi da Vado Ligure, oscurando in parte il cielo. Dall'alba il vento ha ripreso a soffiare a raffiche e questo ha complicato il lavoro delle squadre di soccorso. Canadair ed elicotteri continuano a sganciare tonnellate d'acqua sui quattro fronti del fuoco ancora attivi. Per tutta la mattina si è valutata l'ipotesi di sgomberare di nuovo le case. Il sindaco di Vado Ligure, Attilio Caviglia. Invece di fare un po' la bonifica come ci aspettavamo, siamo ancora in emergenza a spegnere incendi di cui uno proprio grosso. E poi da altre parti invece pian piano, soprattutto con i mezzi a terra, si comincia a spegnere un po' i focolai di incendio. Per gli investigatori della Guardia Forestale, la sera della vigilia di Natale il rogo sarebbe stato innescato dai petardi. I resti di alcuni raudi sono stati trovati sulla collina da dove è partito l'incendio, ma a Vado c'è chi è scettico. In tanti pensano ai piromani e c'è chi dice di aver visto movimenti sospetti sulle colline e alcuni ragazzi allontanarsi di corsa. Per questo, da ieri sera un gruppo di abitanti delle frazioni lambite dal fuoco ha organizzato una ronda di controllo del territorio per scoraggiare eventuali raid. Andrea Ferro, Radio 24, Sole 24 Ore, Genova. Colpevoli di aver chiesto il diritto di voto ricorrendo anche ad un giudice ordinario, una trentina di donne senesi dell'Oca sono state bandite dalla contrada. La contrada dell'Oca peraltro è l'unica che da circa 500 anni non ammette presenza e voto delle donne in assemblea. Sentiamo Serena Vizia, una delle contradaiole che hanno fatto appunto ricorso, al microfono di Adriana Fracchia. Noi partecipiamo dal punto di vista lavorativo, laviamo piatti, puliamo gabinetti, serviamo a tavola, apparecchiamo, lavoriamo in cucina, cuciamo le monture, ripariamo le bandiere, allora va tutto bene, ma quando si tratta di partecipare in altro senso questo non va bene, cioè non lo accettano. Allora 2 o 3 anni fa facemmo una richiesta che ci venne negata e allora ricorremmo al tribunale mediante avvocato. Questo tribunale però ci dette torto per un vizio di forma, in quanto noi 70 eravamo allora, avevamo chiesto il voto per tutte le donne della contrada. Allora noi siamo ritornate con l'avvocato, che era a questo punto siamo diventate 30, quindi meno della metà, per richiedere di nuovo una partecipazione della legge, perché questa discriminazione in contrada era diventata ancora più forte, in quanto venivamo emarginate oppure trattate con epiteti irripetibili. Ed è tutto per questo GR24, il prossimo alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.